The provision of liquidity and the allotment modes for refinancing. La messa a disposizione della liquidità e le operazioni di rifinanziamento continueranno a sostenere le banche dell'area euro e di conseguenza il credito all'economia reale. Il ricorso massiccio alle operazioni di rifinanziamento a 3 anni indica che le nostre misure straordinarie stanno fornendo un contributo significativo a migliorare la situazione di finanziamento delle banche. Di conseguenza, si crea sostegno alla fiducia. Inoltre, stiamo lavorando molto per migliorare le misure annunciate a dicembre, che dovrebbero portare un ulteriore supporto all'economia. Come detto più volte in passato, tutte le misure straordinarie sono temporanee. All the non-standard monetary policy measures are temporary in nature. We are witnessing now is that some of the stressed countries. Attualmente assistiamo al fatto che i paesi più in difficoltà, più stressati, stanno registrando progressi molto significativi in termini di consolidamento di bilancio. Non c'è alcun dubbio. E penso che i mercati stiano mostrando un certo apprezzamento. Tuttavia, se ci si limita solamente al consolidamento di bilancio, non c'è dubbio che nel breve termine si arriverà a una contrazione. Bisogna però capire che molto spesso il consolidamento di bilancio è inevitabile, è essenziale, quindi deve essere fatto. Detto questo, per mitigare la contrazione, occorre intraprendere riforme strutturali che innescheranno maggiore competitività, crescita e nuovi posti di lavoro. Di conseguenza, tornerà anche la fiducia dei mercati. Ma è inoltre essenziale che si arrivi a una conclusione veloce del processo del Fiscal Compact, che va completato in modo chiaro e non ambiguo. Sarebbe molto positivo che il Fiscal Compact, il nuovo patto di bilancio, sia firmato entro fine gennaio, piuttosto che aspettare marzo. It would be highly welcome if this fiscal compact could be signed at the end of this month rather than waiting for March.